30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Mentre l'Europa si prepara a celebrare la caduta del muro di Berlino e la fine del regime comunista sul fronte orientale, emerge una realtà paradossale. La Russia di oggi è un posto ben più pericoloso per la libertà di informazione di quanto non fosse l'Unione Sovietica. Anatomia di un'ingiustizia è il rapporto che viene presentato in questi giorni dal CPJ, l'organizzazione fondata nel 1981 per sostenere la libertà di espressione attraverso la stampa. 17 giornalisti uccisi dal 2000 ad oggi, solo una volta i responsabili sono stati puniti. Solo l'Iraq e l'Algeria superano la Russia nella classifica dei paesi dove è più pericoloso fare il giornalista. Ancora buonasera, bentornati a 30 minuti in cronaca. Dunque parliamo di stampa, di libertà di stampa e parliamo di Russia. Lo facciamo con Antonella Scott, inviata del Sole 24 ore in Russia. La prima domanda su questa informazione piuttosto impressionante che viene dunque da Mosca e non solo. Che succede a Mosca? Come mai la Russia è diventato un luogo così pericoloso per fare il mestiere del giornalista? Mi sembra che sia perché chi è critico verso il regime sono poche persone, sono persone isolate che vengono marginalizzate, dove una classe, i membri dell'apparato amministrativo, chiunque può usare minacce, intimidazioni, anche la forza fisica contro chiunque possa non essere ritenuto leale nei confronti del regime, godendo della più completa impunità. La lealtà, abbiamo visto, è un termine che verrà spesso citato e che viene spesso citato quando si mette appunto in discussione la libertà di stampa. Ho citato nel lancio i 17 giornalisti uccisi, però molti naturalmente non sono uccisi ma sono pesantemente minacciati, aggrediti fisicamente. Aggrediti, intimiditi, ridotti al silenzio. Ci sono tanti di loro che vanno via, che magari cercano di trovare di riprendere il loro lavoro in un altro paese, spesso in Ucraina. Ci sono quelli che semplicemente decidono di autocensurarsi e quindi scelgono il silenzio pur di continuare ad andare avanti. E i giornalisti stranieri in Russia? Quella è un'altra cosa, c'è una situazione differente perché per gli stranieri possiamo dire che c'è una certa immunità di cui si gode se non si superano certi limiti. Una tutela. Proseguiamo. Anna Politkovskaya è trovata morta il 7 ottobre 2006 nell'ascensore del suo palazzo a Mosca. Era tornata a casa dopo aver fatto la spesa. I sacchetti erano molti e pesanti. Li portava su facendo due viaggi. Il primo già fatto, il secondo rimasto a mezzo. I sacchetti stanno a terra, rovesciati nel sangue. L'hanno uccisa con 4 proiettili, di cui uno alla testa. Accanto al cadavere hanno lasciato una pistola Makarov PM e 4 bossoli, e l'arma tipica degli omicidi su commissione. La polizia ha sequestrato il computer della giornalista e tutto il materiale della sua inchiesta sulle torture in Cecenia. Doveva essere pubblicata sull'ultimo numero. La voce di Ottavia Piccolo racconta Anna Politkovskaya né Il sangue e la neve. Il sangue e la neve è un'opera appunto teatrale, di fatto, che viene affiancata in questi giorni nella pubblicazione accanto a un libro. Il titolo è Anna Politkovskaya, a cura di Stefano Massini. Racconta attraverso la vita appunto della giornalista russa quello che poi sono stati gli ultimi 10 anni della storia russa, con i suoi momenti più drammatici. Probabilmente Anna Politkovskaya è anche la più famosa delle giornaliste russe, ma Antonella Scott non è l'unica. No, certo, non è l'unica, anche perché molto spesso purtroppo queste persone vengono impariamo a conoscerle quando si parla di loro perché sono state uccise. Quindi Anna Politkovskaya non era tanto famosa, conosciuta, seguita in Russia, lo è ora perché per noi è diventata un simbolo. Tantissime persone come la Estemirova, l'attivista per i diritti umani che è stata uccisa quest'estate a Grozny, anche lei era una persona conosciuta in una comunità molto ristretta, i giornalisti che andavano in Cecenia, che si potevano appoggiare a lei, e le persone che lei difendeva. Però sono persone che impariamo a conoscere soltanto quando è troppo tardi. Ecco, quali sono i casi? Proprio in questi giorni si raccontano a Mosca alcuni episodi, alcuni hanno degli elementi assolutamente grotteschi. Ne ho sentito e mi hai raccontato anche prima della trasmissione di un caso che riguarda di fatto un ristorante, un nome e qualcosa che, come dire, in un paese più normale avrebbe dovuto essere risolto così, da uno scambio magari di lettere sui quotidiani. Sì, che cosa sono, succede? Sono storie che danno l'idea appunto del clima, pur magari essendo meno drammatiche della storia di Anna Politkovskaya. Questa riguarda un ristorante di Mosca, si chiamava Antisovietskaya, quindi antisovietico. È stato costretto a trasformare il suo nome radicalmente, ora si chiama Sovietskaya, quindi sovietico. Ecco, si dice addirittura che Antisovietskaya nascesse dal fatto che fosse davanti a un palazzo, cioè anti rispetto, certamente di fronte. Sì, naturalmente però è stato letto come una critica, un voler andare contro un atteggiamento che sta prendendo sempre più piede, cioè il voler rivalutare il passato sovietico. Ecco, perché il nome di un ristorante arriva a coinvolgere però i giornalisti e non i ristoratori? Diciamo. Dunque, questo giornalista, Alexander Padrabiniek, aveva scritto un editoriale, questo sempre su internet, perché le voci critiche riescono a trovare ormai spazio praticamente solo online, sulla rete, e un editoriale naturalmente critico nei confronti di questa scelta. In seguito lui ha ricevuto una telefonata nella notte, l'avvertimento che aveva poco tempo per lasciare il paese. Lui sospetta che questo possa farsi, possa risalire ai Nasci, cioè l'organizzazione giovanile che si rifà a Putin. E quindi, per non rischiare, ha scelto di sparire. Diciamo. Ecco, non rischiare e sparire o comunque partire sembra essere diventato uno strumento, come dire, di tutela e di protezione piuttosto diffuso. Un altro caso che recente riguarda invece sicuramente un contesto molto più oscuro, molto più drammatico, si parla di traffico d'armi o comunque lo si ipotizza. Però anche in quel caso c'è un giornalista, peraltro, come dire, non certo di prima linea, che in qualche modo si lascia quasi sfuggire una notizia e poi fugge. Ecco, il caso è quella della Arctic Sea. Sì, Mikhail Vaitienko era una celebrità nel mondo dell'informazione marittima e aveva cercato di trovare la verità in questa storia che ancora è totalmente misteriosa. Che cosa era accaduto? Ricordiamo un po' dunque, gli elementi. Questa nave che, secondo la versione ufficiale, trasportava del legname, partita dalla Finlandia, era diretta verso l'Algeria e non è mai arrivata perché nel frattempo sarebbe stata attaccata da presunti dirottatori, è sparita da tutti i radar, non erano state interrotte tutte le comunicazioni finché non è stata rintracciata, diciamo, al largo di Capo Verde, in sostanza dai servizi segreti russi. E il fatto che siano stati mobilitati i vertici russi ai massimi livelli, la cosa sia stata affidata ai servizi, lascia aperto degli enormi interrogativi. Una delle ipotesi che circola è che la nave in realtà contenesse delle armi. Sicuramente, se avesse trasportato soltanto del legname, non avrebbe suscitato tutte queste reazioni. Ecco, ma l'autore, quindi il responsabile di questo bollettino nautico? Lui aveva cercato di, appunto, di sollevare dei dubbi sulla versione ufficiale. Era diventato un po' il punto di riferimento per i giornalisti, per chiunque volesse avere delle informazioni su questa storia. E anche lui è stato avvertito e ha lasciato il paese, è andato in Turchia, adesso in Thailandia. Forse sembra che adesso inizierà a lavorare per la Novaya Gazeta, appunto il giornale di Anna Politkovskaya. È un po' il destino, appunto, di chiunque voglia mettere in discussione la verità del regime. È la stessa storia che invece è capitata a un altro giornalista, Mikhail Afanasiev, che aveva cercato di dare, anche qui, di mettere in discussione quello che era la verità ufficiale sull'incidente che quest'estate ha sconvolto la centrale elettrica di Saiano-Shushenskaya. Lui aveva detto che le vittime sarebbero state molte di più di quante non fosse stato riconosciuto e infatti è stato così, però intanto lui sempre aveva cercato di parlare su internet attraverso il suo sito, è stato accusato di diffamazione, è stato aggredito. questa è la sorte ormai, che sono storie che vengono fuori ogni settimana. Quasi. Ecco, tra poco cercheremo di vedere anche in alcuni casi, diciamo, come si muove la giustizia in Russia. Prima però vorrei fare con te una riflessione. Insomma, negli ultimi anni la Russia ha visto un proliferare di media, televisioni private, internet, va alla grande, i russi sono dei attivi consumatori, i siti russi sono ovunque, spesso tradotti in inglese. C'è questa sorta di apparente appunto accesso alle informazioni e poi c'è invece questo lato oscuro, peraltro molto esplicito, il rapporto appunto del CPJ lo descrive, sono 75 pagine che peraltro, lo dico agli ascoltatori, potete scaricare se siete interessati alla materia sul sito cpj.org, raccontano appunto un paese quasi impossibile. Certo, online è diventato l'unico modo per diffondere le informazioni senza controlli, dal momento che sia i giornali, quasi tutti i giornali, la televisione naturalmente, sono totalmente controllati dallo Stato. Lasciano qualche piccolo spazio, appunto internet per ora, una radio come Ecomoskvi, che è una radio ancora considerata indipendente, ma lì è come proprio... sembra quasi una libertà di facciata che viene permessa per far pensare in Occidente che l'informazione che tutto vada bene. 30 minuti in cronaca. Anch'io ho visto al bordo dei villaggi pezzi di corpi di persone che erano state fatte saltare in aria. Poi i militari raccontavano che quelli erano guerriglieri che avevano tentato la fuga e che si erano fatti saltare in aria. Questo è falso, perché erano persone imbottite di esplosivo dai militari e che loro facevano esplodere. Ecco, questo era un breve passaggio di un'intervista del settembre 2003 ad Anna Politkovskaya, realizzata per Report da Barnard e Fornoni. Ecco, qui emerge, se vogliamo, un classico delle tematiche affrontate da Anna Politkovskaya, cioè il Caucaso, la Cecenia, il Daghestan, insomma, gli ambiti più oscuri e più violenti della storia russa degli ultimi anni. Vorrei chiederti però, Antonella Scott, qual è la situazione processuale? Lo ricordiamo, Anna Politkovskaya è stata uccisa nell'ottobre di 3 anni fa, poi è partito appunto la macchina della giustizia. Sì, è una macchina che sembra davvero non portare molto lontano. È un sistema in cui, appunto come dicevamo prima, non c'è stato nessuno dei casi di giornalisti uccisi, nessuno è stato risolto. Adesso la situazione per Anna Politkovskaya è che il processo è stato riaperto dopo che nel febbraio scorso 3 imputati erano stati assolti. Dobbiamo però ricordare che queste 3 persone non hanno niente a che fare con l'omicidio vero e proprio, né possono essere considerati certamente mandanti, sono ben lontani da questo, sono persone che avevano fornito un appoggio logistico agli assassini. Quindi è un processo che da molti viene, soprattutto dalla famiglia, dei figli di Anna Politkovskaya, viene considerato una farsa, perché non si avvicina certamente ai veri responsabili. I veri responsabili possono essere trovati molto in alto, stando anche a tante cose che aveva scritti, che aveva lasciato Anna Politkovskaya, ed è questo il motivo per cui la giustizia non va oltre una certa apparenza di ricerca della verità. Adesso c'è questa piccola speranza per il fatto che non solo il processo è stato riaperto, ma è stata ordinata per accompagnarlo una nuova inchiesta sul vero, quello che dovrebbe essere il killer della Politkovskaya. Per ora tendiamola come speranza. Ecco, spesso negli ultimi tempi ho visto rivolgere degli appelli di fatto al presidente Medvedev, uomo diciamo considerato innovatore, giovane presidente, e in passato negli ultimi mesi ha più volte sottolineato il ruolo insomma, quanto sia importante per un paese moderno avere anche una giustizia efficiente. C'è stata qualche risposta diretta? Lui ha compiuto qualche gesto nei confronti dei giornalisti della Novaya Gazeta e di chi è stato vittima appunto di questi atti? Sì, i gesti ci sono stati. Questa intervista alla Novaya Gazeta è stato un gesto molto importante. Anche cioè perché lui si è fatto intervistare dalla, sì, e quindi ha fatto una scelta esplicita. Sì, sì, su richiesta di Mikhail Gorbaciov, che è uno dei proprietari della Novaya Gazeta. Ecco, forse Antonello è il caso di dirlo, la Novaya Gazeta che giornale è nel panorama russo? Voglio dire, un giornale importante per cui è normale che venga un presidente si faccia intervistare da un giornale come la Novaya Gazeta o no? Io credo che non sia un giornale conosciuto dalla stragrande maggioranza dei russi. Credo che il gesto di Medvedev fosse quasi forse più mirato all'opinione pubblica occidentale, perché è un giornale di una piccola elite. Che sì, elite nel senso di persone che sensibili a questo tipo. Quindi di problemi. Farsi intervistare era comunque un segnale, un, sì, gesto. Ha avuto un seguito? No, è questa forse la cosa che forse ci fa sospendere per ora il giudizio su Medvedev, perché alle dichiarazioni non seguono per ora fatti concreti, assolutamente. Candles were lit, hymns sung, and warm tributes spoken at Christ the Savior Cathedral, where a memorial service marked 5 years since Paul Khlebnikov's murder. Paul Khlebnikov, un altro nome, questo lo sentite, in realtà è una... sentite il sottofondo in lingua inglese, ma è un canale russo in lingua inglese. RT racconta appunto i 5 anni, la celebrazione dei 5 anni dell'omicidio di Paul Khlebnikov. La celebrazione è avvenuta il 9 luglio scorso. Khlebnikov dunque è stato ucciso nel 2004. Tra i suoi libri, tra i libri di questo giornalista, editor di Fortune a Mosca, su tutti direi Godfather al Cremlino, cioè i padrini del Cremlino, un libro che fece scalpore a suo tempo. Sì, era diretto contro Boris Berezovsky, che allora era diciamo forse il capofila degli oligarchi, della classe di imprenditori che si erano legati a doppio filo al potere politico. Khlebnikov indagava non solo con questo libro, ma tutto il suo lavoro era mirato all'indagine su questo intreccio tra criminalità e politica, e quindi è stato questo che lo ha sicuramente condannato, e forse questo ci ricorda quanto, appunto, quando parlavamo dei giornalisti stranieri, ci sono limiti che riguardano anche gli stranieri. Ecco, forse se vogliamo, come dire, comunque insistere anche sugli elementi di speranza, nelle ultime settimane c'è questa disponibilità da parte russa di come dire, portare avanti delle indagini confrontandosi col Ministero della Giustizia degli Stati Uniti. Cosa voglia dire? In realtà è un bel punto di domanda, ma... Sì, sono appunto le possibilità che si possono aprire, sì, se Medvedev avrà la forza e il coraggio di andare avanti, anche se poi lo stesso Medvedev dall'altra parte prende delle decisioni che vanno in senso opposto, come in particolare il fatto che stia cercando di ridurre sempre di più i processi affidati a una giuria, e questo quindi va in senso diametralmente opposto a un rafforzamento dello stato di diritto. Io non scrivo mai commenti, né pareri, né opinioni. Ho sempre creduto e continuo a credere che non stia a noi dare giudizi. Sono una giornalista, non un giudice, e nemmeno un magistrato. Io mi limito a raccontare i fatti come sono, come stanno. Sembra la cosa più facile, invece qui è la più difficile, e ha un prezzo altissimo. Ecco, il prezzo altissimo che sentiamo raccontare da Anna Politkovskaya con la voce di Ottavia Piccolo nel libro, nel DVD, Il sangue e la neve, è dunque il prezzo che, come racconta questo rapporto, lo ricordo, Anatomy of Injustice, è piuttosto impressionante perché i casi sono molteplici. E devo dire, ciò che impressiona, al di là del numero assoluto delle vittime, è la sistematicità con cui vengono perseguiti i colleghi che pubblicano anche notizie francamente non clamorose. Forse questo è un po', Antonella Scotto, in conclusione, la caratteristica che spaventa e che evidentemente va rifiutata della Russia di oggi? Sì, è la cultura, come dicevamo prima, questa cultura del controllo, diffondere, far sentire chiunque contrario isolato, la mancanza di una società civile che gli sta intorno, lascia queste persone nella solitudine. Chi lotta è circondato da una certa indifferenza che forse non è da attribuire alla cioè non ne sono responsabili tanto le persone, ma è proprio perché è uno stato d'animo che nasce dal sapere che comunque uno non può incidere nelle cose e quindi si tramuta in indifferenza. Essere isolati è un po' quel percorso che anche nelle storie di mafia, che tante volte abbiamo conosciuto nel nostro paese, porta a morire poi nell'indifferenza, e questo in Russia accade. Sì, vorrei ricordare una cosa di Anna Politkovskaya, perché mi è piaciuto molto. Stavo parlando con Elena Lipser, che è un avvocato, lei adesso sta seguendo il caso Khodorkovsky, ma è anche uno degli avvocati coraggiosi che si battono per cercare di difendere chi non ha difese. E lei mi ha raccontato che ogni volta che Anna Politkovskaya andava in Cecenia, lei le diceva: ma perché vai? È pericoloso, chi te lo fa fare? E Anna rispondeva: se non ci vado io, chi ci va? E poi Elena ricordava che comunque poi alla fine, mentre il pericolo era là, ma poi alla fine Anna Politkovskaya è stata uccisa nel centro di Mosca, quindi questo ci ricorda che il vero pericolo forse non è tanto laggiù, ma... È stata uccisa nel centro di Mosca con i sacchi della spesa mentre tornava a casa. Io ringrazio Antonella Scott, siamo arrivati alla conclusione, vi invito a leggere i suoi racconti sulla Russia di oggi, naturalmente sul Sole 24 Ore. Vi segnalo anche un libro in uscita, Dania e la neve di Massimo Ceresa. In questi giorni appunto si ricorda tra l'altro l'omicidio di Anna Politkovskaya e di dei giornalisti che vengono uccisi mentre compiono il loro lavoro. Non mi resta dunque che ringraziare Peter Bescapè che ha curato oggi la regia, ricordarvi che questo e tutti gli altri programmi di Radio 24 li ritrovate su radio24.it. Buon fine settimana a tutti.